649. Dolce Torino. Formate questo dolce sopra un vassoio o sopra un piatto e dategli la forma quadra. Savoiardi grammi 100, cioccolata grammi 100, burro fresco grammi 100, zucchero a velo grammi 70, un rosso d'uovo, latte cucchiaiate numero 2, odore di zucchero vanigliato. Tagliate i savoiardi in due parti per il lungo e bagnateli col rosolio, oppure, il che sarebbe meglio, metà col rosolio e metà con l'alchermes, per poterli alternare onde facciano più bella mostra. Lavorate dapprima il burro con lo zucchero e il rosso d'uovo. Ponete al fuoco la cioccolata grattata o a pezzetti col latte. E quando sarà ben sciolta, versate la calda nel burro lavorato. Uniteci l'odore e formate così una poltiglia mescolandola bene. Disponete sul vassoio un primo strato dei detti savoiardi e spalmateli leggermente con la detta poltiglia. Indi sovrapponete un altro strato di savoiardi, poi un terzo strato ancora, spalmandoli sempre leggermente. Il resto della poltiglia versatelo tutto sopra e dai lati pareggiandolo meglio che potete. Il giorno dopo, prima di servirlo, lisciatelo tutto alla superficie con la lama di un coltello scaldata al fuoco e in pari tempo, piacendovi, ornatelo con una fioritura di pistacchi oppure di nocciuole leggermente tostate, gli uni e le altre tritate finissime. Grammi 40 di nocciuole pestate col guscio o grammi 15 di pistacchi potranno bastare. Già saprete che questi semi vanno sbucciati con l'acqua calda. È una dose per 6 o 7 persone.